casa così fredda, tra pareti così strette, un pianoforte, una coperta e le nostre sigarette. Due chiacchiere di fretta, quelle le pretendi sempre, e il cane che ci aspetta sulla porta per le feste. 60 metri quadri contengono universi temporali e dubbi esistenziali. 60 metri quadri ci tengono vicini e poi lontani. Se finirà lo sai che questo posto sarà solo nostro, ci resterà addosso. Non finirà così, non credo. È la fine di un film che ho spento, non la vedrò adesso. Porta le sere che litighiamo, spero sempre tu rimanga, anche se dico il contrario. E tu sai guardarmi dentro e vai oltre le parole, ma lo vedo che sei stanca, che alle volte sei altrove. 60 metri quadri contengono uragani, malumori e i nostri corpi nudi. 60 metri quadri rendono diversi e così uguali. Se finirà lo sai che questo posto sarà solo nostro, ci resterà addosso. Non finirà così, non credo. È la fine di un film che ho spento, non la vedrò adesso. Solo nostro, ci resterà addosso. Non finirà così, non credo. È la fine di un film.